E siamo entrati in diretta a 451 frammenti sonori insieme a 451 intersezioni, dunque puntata speciale stasera. Mi sto sentendo un po' in cantina, non capisco perché. No, ma non sei molto in cantina, no. Cioè, rispetto a me sì, sicuramente, anche perché mi sono, non so, un mare di ormoni, tra poco impazzisco, mi autoeccito. Però qua la voce è bella. Sì, Isaac Hayes, vabbè. Comunque ci scusiamo con gli ascoltatori, siamo partiti un po' in ritardo, la motivazione è abbastanza chiara. E beh, abbiamo visto i rigori, diciamo, in maniera zambrissima, ma siamo stati bloccati, o d'altronde anche noi siamo dentro. No, ma l'altro giorno tra l'altro mi hanno detto, no, stavo guardando una partita di una nazionale col colore azzurro, e mi hanno detto, beh, pensavo fossi una persona seria. Ho detto, perdonami, ogni tanto mi scappa di vedere una partita. E ci hanno bloccato. Io non seguo il campionato, tu sì, quindi io sono molto peggio di te, però non sputtanarmi subito, perché qua in radio di solito non parlo mai di calcio, però ma tanto vabbè, siamo in libertà, siamo in totale libertà, dopo un anno a parlare nel senso buono, parole in libertà, però nel senso futurista, buono, positivo, buono. Perché adesso viene usato come termine quasi dispregiativo, no? Dispregiativo, come no? Dire, stai dicendo una marea di cazzate di parole in libertà, invece non era quello il senso. No, ma che lo recuperiamo noi, diciamolo. Comunque, facciamo un po', diciamo, le presentazioni stasera, ovviamente nel contenitore, nello spazio radiofonico di 451 intersezioni, stasera puntata speciale 451 intersezioni, 451 frammenti sonori, dedicata e diciamo pensata insieme a Max Macchia e Eliseo Scarpa. Facciamo un po' come una volta, ecco, conduttori di questi due spazi, facendo capo, come dicevamo, ogni anno, tutto l'anno radiofonicamente, il contenitore 451, che poi trovate nel blog, dunque sempre 451 frammentisonori.noblogs.org, tutte le puntate, anche la nostra pagina Facebook come 451 frammenti sonori, dove ci sono curata tra l'altro Lorenzo Albano, così salutiamo, siamo quasi in tre, sì, siamo quasi in tre, sì, effettivamente. Lorenzo Albano, nel senso che non c'è fisica, prima o poi lo porteremo, ma l'abbiamo portato in passato, ma non ha mai parlato, però non parla, ha paura, va bene, poi cercheremo di sganciarlo, di liberarlo, liberiamo le parole. Lorenzo Albano, ecco, lo salutiamo. Dunque stasera puntata speciale, dicevamo, e puntata che abbiamo voluto chiamare Nova Musica è diverso Cramps. Dunque praticamente andiamo a con piccoli frammenti, con alcuni album storici bellissimi, sperimentali e non solo, dentro la collana della Cramps, queste due serie di produzioni della Cramps, Nova Musica e Diverso, che raccontano un altro, diciamo, un'altra faccia, una delle tante facce, diciamo così, del progetto Cramps. E stasera avremo questo percorso che faremo insieme come chiusura della stagione radiofonica di 451 2015-2016. Come anno scolastico, campionato, anche un po' campionato. Forse io mi sento un po' più a scuola, perché poi arriva, sai, l'ultimo momento, poi per me era sempre molto drammatico, quindi, perché dovevo recuperare tutto l'anno, insomma, in sostanza. Ah, per gli esami di riparazione, no? Sì, ma anch'io l'ho fatto. È sempre un disastro, no? Tutti andavano al mare, io invece. È vero. Dovevo stare lì. Anch'io tre anni così, effettivamente. È un po' triste. È stato tremendo. Insomma, si pagano. Quindi, maggio per me, maggio-giugno, sono sempre stati io. Ma anzi, a giugno non si andava già più. Ma non si andava più, è luglio che ci mangiava, poi luglio. Anche. No, però era giugno che tentavo ancora, aprivano la scuola quasi per me, con i professori che non mi volevano più interrogare, quindi sono stato traumatizzato. Sì, dicevano, guarda che non viene più nessuno, è inutile, cioè non hai fatto niente tutto l'anno, hai fatto un cazzo, quindi vabbè. Bene, dopo questi ricordi di giovinezza andiamo subito a bomba e presentiamo autore, perché siamo già in ritardo. Bacchettami, perché sono un po' così, in clima estivo, via. Okay. Allora, iniziamo con la Kubish. Kubish è Fabrizio Plessi, tra l'altro. E la Kubish poi divenne famosa nell'ambito della sperimentazione proprio dopo i primi lavori, proprio editi da Multipla Records, vicino comunque alla Cramps, e la stessa Cramps, in questo caso appunto Diverso. Iniziamo appunto con il lavoro del 79, che vedeva due sperimentatori, Kubish Plessi Poi dopo vi diremo anche su che cosa lavorano, già forse il titolo vi dà un'indicazione, tempo liquido. E appunto per diversificare in una certa misura già musiche diverse di loro, quelle della Cramp, si creò questa sottoetichetta, questa corrente che aveva varie anche connotazioni pop, e certo il pop visto da quel visionario, quel geniaccio che fu a Sassi, che veramente una, ecco lì veramente le parole libertà, anche appunto quella faccenda legata al recupero dell'avanguardia e del linguaggio. Stasera sentiremo anche proprio dei riferimenti immediati e diretti appunto a quel momento. Kubish e Fabrizio appunto Plessi in questo tempo liquido, una sorta di minimalismo popizzato dentro suoni elettronici che vanno un po' a rincorrersi, anche in maniera insomma divertita e divertente. Tempo liquido. Thank you. Liquido da parte di Cristina Kubisch e Fabrizio Plessi, che tra l'altro anche egli giovane nel 79, quando appunto uscì questo lavoro che per tanti versi apre proprio, prima dicevamo, il lungo percorso della Kubisch che arriva fino ai nostri giorni, e invece per Plessi sarà una specie di parentesi, ma anche molto interessante, visto che poi proprio i primissimi lavori quasi a dare la spinta alla Kubisch sono stati fatti appunto con Plessi, soprattutto questo secondo, Tempo Liquido, per Diverso. E Diverso poi è Nuova Musica, quella che stiamo trattando come appunto omaggio anche diretto indiretto alla Cramps. Per forza l'omaggio è sempre diretto e indiretto verso la Cramps, diretto perché è chiaro che si possono ascoltare direttamente appunto i lavori, e indiretto soprattutto per quello che la Cramps ha dato in termini di capacità di innovare le musiche non soltanto sperimentali italiane, anzi di innovare buona parte delle musiche internazionali degli anni 70, e anche avendo la capacità di rimettersi in discussione all'interno, quindi creando anche non soltanto dei come dire, specie di serbatoi e poi da utilizzare in maniera insomma più merceologica, no? E come tante etichette adesso fanno, anche più o meno alternative, no? Ma proprio un linguaggio parallelo che potesse però anche andare poi a impattare sulla Cramps stessa, no? Quindi sulla poi la casa madre, no? Rispetto a Diverso e a Nova Musica, che appunto erano questi quasi escrescenze, potremmo dire, di appunto della Cramps Record, poi ritrovandosi appunto dentro quelle sperimentazioni che sono eccezionali proprio in termini di sia di quantità che di qualità sonora, di messa in discussione. Qua la Kubish di fatto inventava con la sua sperimentazione legata al suono acustico dentro lo spazio acustico, con Plessy tra l'altro si mischia anche la faccenda con l'elettronico. Comunque lo studio del suono nello spazio, quindi la scultura sonora che la farà una delle protagoniste poi degli anni 80 e soprattutto dei 90, quindi poi punto di riferimento di quello che saranno le sperimentazioni di molti giovani artisti appunto affacciatesi negli anni 90, quando le elettroniche finalmente, anche addirittura uscite dalla dance, vanno a cercare nelle sperimentazioni del passato, e quelle di Diverso sicuramente lo sono, nuova linfa, strani connubi, dialettiche, incontri, scontri, quindi una specie d'apertura che forse anche così nel flusso, quindi non tanto nello studio quindi nel tentare poi di fare delle cose che di fatto insomma venivano da sé, no? Cioè dal movimento, potremmo dire, qua in questo senso, e appunto anche proprio come movimento musicale, di linguaggio totale, e quindi di avanguardia tout court. Appunto pensare a questo lavoro del 79 come appunto passaggio, come momento insomma di trade union tra varie generazioni, soprattutto appunto come accennavo quella degli anni 90, ci faceva specie insomma anche per proprio iniziare il percorso questa sera legato a Diverso della Cramps e a Nuova Musica sempre della Cramps. Direi che Escrescenza mi è piaciuto molto, sì, mi ha dato un'idea molto molto molto viva, molto materiale. Mi volevi serio, poi sai, divento serio. No, ma va bene così, bisogna fare così, ottima presentazione, non mica devo darti... Sembra finta però. Sì. Una sorta di schizofrenia. Ma va bene, un po' di schizofrenia. Se riusciamo... È caldo. Ma vabbè, è caldo qua, veramente dobbiamo dirlo all'ascoltatore, è una cosa veramente incredibile, ma non a caso... Il clima qua dentro. Qua secondo me nascono dei microorganismi, in quel senso. Sì, hai ragione. Comunque sì, effettivamente adesso ci spostiamo, ci alterneremo tra la collana Diverso e la collana Nuova Musica, anche perché non è che sono completamente ovviamente scollegate, fanno parte di un progetto legato alla Cramps, è un progetto ovviamente musicale ma anche generalmente possiamo dire concettuale e anche legato a un'attitudine, a una ricerca, a una sperimentazione. Adesso passiamo da questo splendido lavoro che sentiamo ancora in sottofondo della Kubish e di Plessy a Nuova Musica come collana. Andiamo a trovare un autore rumeno, Costin Miereanu, che ha fatto uscire proprio per la Cramps con la collana Nuova Musica l'album Luna Cinese, uscito nel 1975. Questo è un musicista molto importante, perché comunque faceva parte della scuola di Darmstadt, è stato un allievo di due giganti come Georg Ligeti e Karl-Heinz Stockhausen, un musicista che ha studiato anche moltissime altre discipline, si è laureato in filosofia, in storia della musica, oltre ovviamente in composizione e in estetica anche del suono, dunque un autore, un compositore che si è mosso su vari canali fino a diventare andare dal periodo delle produzioni con la Cramps, ma anche successivamente ha creato una piccola etichetta francese in Francia che ha fatto uscire qualche album, pochi bisogna dire, tra gli anni 80 e inizio anni 90, e poi praticamente si è dedicato all'insegnamento, perché è professore alla Sorbona, insomma non poco, questo non è poco, dunque adesso fa veramente il professore. Però in questo disco c'è effettivamente, si sente molto dell'influenza ovviamente della scuola di Darmstadt, molto legato ovviamente al settore della sperimentazione connessa alla musica contemporanea, ma non solo. Sentiremo in questo brano, che poi ascolteremo solo in parte, non totalmente, perché come quello della Cubis e Plessi sono molto lunghi, ascolteremo un frammento e poi ritorneremo in voce, oppure faremo qualche scherzo, non lo so, decidiamo. Sì, scherzi non da prete, e non da prete, provocativi un po', va bene, sì, un po' pericolosi. Lanciamo? Via, lanciamo, andiamo, no, via. Via con Costin Miereanu. È difficile. È un po' difficile. And mutual catastrophe feedbacks. Die Fahrt war natürlich furchtbar lang. Die Kinder wollten keineswegs so lange im Zug sitzen. Sie fingen dann auch langsam an, sich zu krümmen und wollten Karten spielen. Es ist nichts dabei rausgekommen. Und Karl hat sich auch um sie gekümmert, aber alles nichts genützt. Endlich rauskam. Kreisen gehörig absenken zu lassen. Wasche ihn rein. Unter dem Dach, da regnet es rein, den müssen wir vielleicht wegstellen. Both constitute separate. wollte es mir einfach nicht zustehen. Sie wollte es mir nicht. Entrare, amore, trarre, reale, ricambiare, crescere, credere, rivivere, capire, rinunciare, ritentare, recare, un cielo, partire, uscire, rompere, potere, adunare, regire, realmente, ricostruire, reazionario, distruggere, sparare, repressione, riuscire, ricominciare, armare, proletaria, persecuzione, stroncare, parassita, eliminare, riuscire, volere, pretendere, premere, recuperare, predicare, sfruttare, credere, annullare, premeditare, imporre, esigere, incoglionire, reprimere, rientrare, giocare, raro, rinunciare, essere, morire, sapere, realizzare, capire, cercare, reale, impazzire, partorire, riuscire, dividere, eliminare, pretendere, reprimere, crescere, armare. Entrare, amore, raro, reale, ricambiare, crescere, credere, rivivere, capire, rinunciare, ritentare, precario, incerto, partire, uscire, rompere, potere, adunare, regime, realmente, ricostruire, reazionario, distruggere, sparare, repressione, rivoltare, riuscire, ricominciare, armare, proletaria, persecuzione, stroncare, parassita, eliminare. Riuscire, volere, pretendere, premere, recuperare, predicare, sfruttare, credere, annullare, premeditare, imporre, esigere, rincoglionire, reprimere. Rientrare, giocare, raro, rinunciare, essere, morire, sapere, realizzare, capire, cercare, reale, impazzire, partorire, riuscire, dividere, eliminare, pretendere, reprimere, crescere, armare. Entrare, incerto, precario, ritentare, rinunciare, capire, vivere, credere, crescere, ricambiare, reale, amore, uscire, eliminare, parassita, stroncare, persecuzione, proletaria, armare, ricominciare, riuscire, rivoltare, repressione, sparare, distruggere, reazionario, ricostruire realmente, regime, adunare, potere, rompere, riuscire, reprimere, rincoglionire, esigere, imporre, premeditare, annullare, credere, sfruttare, predicare, recuperare, premere, pretendere, volere, rientrare, armare, crescere, reprimere, pretendere, eliminare, dividere, uscire, partorire, impazzire, reale, cercare, capire, realizzare, sapere, morire, essere, rinunciare, giocare, entrare, amore, raro, reale, ricambiare, crescere, credere, rivivere, capire, rinunciare, ritentare, precario, incerto, partire, uscire, rompere, potere, adunare, regime, realmente, ricostruire, reazionario, distruggere, sparare, repressione, rivoltare, riuscire, ricominciare, armare. persecuzione, stroncare, parassita, eliminare. Riuscire, volere, pretendere, premere, recuperare, predicare, sfruttare, credere, annullare, premeditare, imporre, esigere, rincoglionire, reprimere, rientrare, giocare, raro, rinunciare, essere, morire, sapere, realizzare, capire, cercare, reale, impazzire, partorire, riuscire, dividere, eliminare, pretendere, reprimere, crescere, amare. Qualche secondo di silenzio dopo un pezzo straordinario come Indicazioni 2 da parte di Paolo Tofani, Indicazioni nell'album, e ci viene anche un po' da sorridere, perché è veramente un lavoro incredibile questo. Se dopo sentiremo un altro dei personaggi, immaginiamo insomma che sia Tofani, che il prossimo, insomma, sappiate da quale gruppo provengano, insomma, vabbè, lo diciamo, gli Aria, giustamente. Sì, diciamolo perché è importante. Non facciamo sempre misteriosi, anche perché di misteri qua ne fanno veramente poco, sia Tofani che poi dopo, quando sentiremo Fariselli. Il disco di Fariselli, Antropofagia, dopo lo ascolteremo, è decisamente celebrato come disco di culto, anche ristampato, mentre queste Indicazioni di Paolo Tofani, molto meno. Assolutamente ci interessava, e facendo insomma un gioco di parole anche piuttosto semplice, appunto ci indicava una mutazione dentro poi il corpo degli stessi Aria. Se pensiamo che Paolo Tofani ha iniziato suonando rock and roll come molti, poi tra l'altro forse tutti gli Aria, ma buona parte anche di chi faceva, che è arrivato a fare sperimentazione negli anni 70 in Italia, viene dalle Barere, in effetti suonava poi con un gruppo anche Beat, i Samurai, che forse già darà quella linea poi così di ricerca anche così quasi gnostica di Tofani, sempre anche aperto come lui, un altro grande insomma di quegli anni, Franco Battiato, sempre a perdersi, no, dentro dimensioni ulteriori, dimensioni poi anche tra l'altro vissute politicamente in maniera molto militante, appunto con gli Aria, ma che non ha portato anche Tofani verso strade, sia in termini di rock anche piuttosto famoso, il suo rapporto con i Traffic di Steve Winwood, tra l'altro suonato anche in situazioni appunto con loro, i celeberrimi Traffic, ma anche ad esempio lo sperimentare con le primi sintetizzatori negli anni 70, sintetizzatori tra l'altro che venivano utilizzati anche in quel periodo da Pink Floyd, erano gli stessi dello studio Electronic Music Studio, appunto gli EMS di Peter Zinoviev, frequentati anche appunto dagli stessi Floyd, quindi un incrocio veramente incredibile, anche proprio delle sinergie che si venivano a creare tra chi inventava strumentazioni nuove e chi poi sperimentava di fatto insomma musicalità, suoni nuovi. Dentro Indicazioni c'è un mondo che viene tanto dal gioco linguistico, abbiamo sentito in Indicazioni, un gioco che poi porta appunto le parole a liberarsi, a liberare, quindi veramente un percorso che riesce attraverso il gioco, l'armare, no? Come sentiamo dire, addirittura ribaltando quelli che sono termini e concetti che erano antagonistici ovviamente rispetto appunto al percorso di Tofani, degli Aria, tipo repressione, no? Reazione. e ribaltandoli dentro appunto un gioco che si apre verso dimensioni altre. E tutto il disco, tra l'altro, di indicazioni di Paolo Toffoli ha questa grandissima apertura. Tra l'altro negli aria creò quel momento eccezionale che è la celebre introduzione di Luglio, Agosto, Settembre Nero, che è uno dei momenti insomma più alti forse delle musiche italiane, tra jazz rock, sperimentazione, prog che andava verso altre strade, verso musiche liberate, free rock, eccetera eccetera. Beh, progetto poi che tra l'altro sarà anche una parentesi così piuttosto curiosa, quella di Electric Frankenstein, insieme proprio a Gianni Sassi c'è Toffani, che è un disco veramente pazzesco, perché insomma si divertono di fatto, facendo uscire anche quell'anima proprio iniziale, no? Quel rock and roll che li aveva formati, però giocando appunto sul pop, sull'assurdità, no? Del tentare anche strade che per il pop insomma erano piuttosto fuorvianti, no? Volevano quello, un pop deviante che portasse verso altre appunto dimensioni anche sonore, ma anche proprio linguistiche di fatto, no? E un altro pezzo che andiamo a sentire da questo disco meraviglioso, Indicazioni, e Tung Tse Mao. Qua c'è un gioco chiaro, esatto, sì. Mao Zedong è ribaltato, anche qua ribalta me, e sentirete tra pochissimo un eccezionale viaggio tra elettroniche e tra momenti di ricerca psichedelica alla Toffani, e con questi appunto sempre ricerca di una sorta di altrove anche spirituale, se vogliamo, perché poi alla fine Toffani, tra l'altro seguendo un altro grande sperimentatore come Claudio Rocchi, diventerà Hare Krishna, sarà insomma vicino, insomma. Però anche lì potrebbe, come dire, sembrare una chiosa, no? Sono d'accordo. E invece Toffani, tuttora sentendolo parlare, c'è una continuità nella discontinuità apparente della faccenda, che poi il problema non si sia fatta la rivoluzione. Ah beh, quello non è che quello è un problema annoso, appunto, non c'entra solo Toffani, quindi riguarda tutti noi, diciamo. Esatto, soprattutto quella generazione. E quella generazione in particolare. Diciamo anche, prima di partire ad ascoltare questo altro brano splendido di Toffani, che subito dopo faremo subito un mix con un album di Juan Hidalgo, Rose Selavi, e poi rientreremo per dare qualche indicazione, perché Juan Hidalgo è un altro personaggio non da poco, un grande compositore spagnolo, oltretutto anche di una certa età, ancora vivo, che ha lavorato appunto nel progetto di Nova Musica per la Cremes. Andiamoci a sentire intanto questo capolavoro di Toffani. Sì.